Allora, vi do il benvenuto a tutti quanti, grazie di essere così numerosi alle iniziative della Biblioteca Provinciale. È nostra consuetudine così organizzare degli appuntamenti durante la settimana con una certa costanza e seguendo anche il calendario scolastico, per cui vi promettiamo di lasciarvi liberi dal 16 di giugno in poi, ma perché organizzeremo anche quest'estate degli incontri invece durante la mattina, chi ha piacere, chi ha tempo, poi manderemo il calendario. Saranno incontri di vario genere, soprattutto anche destinati sempre all'apprendimento di come si utilizzano gli strumenti multimediali, internet, ma anche delle occasioni per conoscere le novità editoriali più legate alla narrativa locale. Questa sera invece siamo particolarmente contenti di avere con noi Luigi Sardi, giornalista che scrive per il Trentino e per l'Alto Adige, nonché autore anche di numerosi libri, alcuni. Ne abbiamo esposto qua uno che è Delitti e Misteri, veramente ripercorre la cronaca di alcuni appunto delitti del passato e che riguardano il nostro territorio, in particolare il Trentino, vero? Poi abbiamo anche preparato una vetrina con altri testi legati sempre alla vicenda di Via Rasella. Sono passati ormai 70 anni da questo episodio, ma molti sono ancora forse gli aspetti da chiarire e comunque merita una conoscenza approfondita questo evento, questo episodio tristissimo che ci riguarda anche molto da vicino. Luigi Sardi ha scritto appunto questo libro, Via Rasella, il Südtirol e Kappler, fra storia e cronaca, dalle fosse ardeatine al tesoro di Fortezza. Abbiamo chiesto per questa occasione qui in biblioteca di accompagnarci alla presentazione ad Alberto Faustini, che è il direttore dell'Alto Adige e del Trentino, e a Pinuccia Di Cesaro, che è l'editrice della Casa Praxis, da tantissimi anni attiva sul territorio e che pubblica anche molti libri legati sempre alla nostra, al nostro Alto Adige Südtirol. Io vi ringrazio, approfitto sempre di questi momenti preziosi per invitarvi ad iscrivervi alla biblioteca, un'operazione gratuita ma ci serve per tenervi in contatto e informati soprattutto di quelle che sono le iniziative che organizziamo. E poi se potete diffondere anche l'informazione presso magari persone che conoscete che si stanno laureando o stanno conseguendo un dottorato di ricerca, noi ogni anno in ottobre raccogliamo le tesi di laurea specialistica anche e poi le premiamo in dicembre, perché stiamo creando da anni un centro di documentazione legato al territorio e poi da quest'anno stiamo promuovendo questi lavori periodicamente con delle presentazioni qua in biblioteca. Ecco, vi lascio subito entrare nel vivo della questione, vi ringrazio ancora e a presto, grazie. Grazie a lei, grazie. Pinuccia, non è bello che prenda per primo la parola io? No, è bellissimo. Vi invito a usare un po' il microfono perché non è acusticamente interessante. E come mai però tu non lo usavi? Però funziona? Funziona. Secondo me è spento, però è spento, secondo me è spento. Valeria. Sì, potrebbe però anche lo uso da acceso a questo punto. Sì, sì, dai, facciamo la cosa seria. Mi sentite? Sì. Bene, perfetto. Forte e chiaro. Forte e chiaro. Allora, ho appreso, prima cosa, che mi invitano a presentare i libri solo quando li scrivono autori che in qualche modo sono legati al giornale, per cui sono offesissimo, per cui solo quando ho un conflitto di interessi vengo invitato qui alla Biblioteca Claudio Augusta, e lo dichiaro subito il conflitto di interessi, e tra l'altro stavolta è un conflitto di interessi importanti, perché quando Gigi Sardi, come lo chiamo io, mi ha mandato le bozze del libro, ho scoperto che accanto alle pagine molto belle scritte da Umberto Gandini, che ha risalito la storia come un salmone un po' al contrario, per cui una storia impervia, per raccontarla sulle pagine dell'Alto Adige, mi sono imbattuto anche negli articoli di un certo Gianni Faustini, che era un cronista dell'Alto Adige, che poi è stato direttore e che è un mio lontano parente, nel senso che mio padre è lontano per altre ragioni, ma se volete faccio una serata anche su questo. Però in tutti i casi immaginatevi per me anche l'emozione, cioè di leggere dal direttore del giornale che riceve da un illustre collaboratore delle bozze, di trovare anche un certo modo di fare questo mestiere, un tempo che oggi non c'è più, ma un tempo che è storico, perché c'erano ancora quelle cose incredibili e straordinarie che si chiamano i testimoni oculari, quelli che c'erano. C'erano i superstiti. Quando si legge un libro come questo ci si chiede se i morti sono quelli che sono rimasti o i morti sono quelli che sono morti ad esempio in via Rasella o le fosse Ardeatine, perché ci si accorge che la morte poi resta anche a chi è costretto invece a sopravvivere, è costretto a testimoniare, è costretto a ricordare. E non ci sono più nemmeno i tempi di quel giornalismo che si prendeva il lusso di non solo di fare inchieste come si ama dire oggi. In realtà secondo me non è vero che oggi il giornalismo non faccia inchiesta, è che fa talmente tanta inchiesta che è tutto inchiesta, cioè non si riesce più a distinguere nel giornalismo di oggi quando inizia e finisca un'inchiesta, quando inizia e finisca un articolo normale, quando addirittura inizia e finisca un libro, perché in un certo senso la settimanalizzazione dei giornali, come la chiamano gli esperti, cioè i quotidiani, hanno in parte superato anche i settimanali, per cui fanno in un giorno quello che a volte i settimanali approfondivano in una settimana, di conseguenza diventano dei libri che un po' escono tutti i giorni. Ecco, dicevo, quando mi sono trovato queste bozze fra le mani, sono dispettosi, chiacchierano come in Muppet Show, non so se vi ricordate, chiacchierano un po'. Allora vi dicevo, quando mi sono trovato queste bozze fra le mani, ho pensato a un'immagine che ho già citato altre volte, ma che mi ha colpito molto, un'immagine di Henry De Luca che arriva in Messico e scopre la cartina del mondo rovesciata. Cioè lui non sarà mai reso conto, la prima volta che andava dall'altra parte del mondo, che i nostri occhi sono sempre gli stessi, per cui siamo abituati a vedere l'Italia al centro messa in una certa posizione, noi siamo l'ombelico e da lì parte il mondo. E lui arrivò in questo bar del Messico, è una cosa che ha scritto una volta in un libro, ma insomma, e vide questa cartina in cui l'Italia ad esempio era rovesciata, no? Vi immaginate l'Italia rovesciata? No. Vi immaginate gli altri paesi disposti in modo diverso? No, perché da quando siamo bambini che la storia ci viene raccontata in un modo, la geografia in un modo, per cui è impensabile. Ed ecco perché è bello il libro di Gigi Sardi, perché la storia è rovesciata. Cioè per noi la storia è le fosse Ardeatine, per noi la storia, ve lo dice anche un giovane cronista all'ora del mattino dell'Alto Adige che venne molto contestato perché osò intervistare, ve lo ricordate, forse un personaggio di questa città aveva un po' di peso, poi vi dico chi era, ma in tutti i casi intervistai un personaggio che raccontava di via Rasella e alcuni ai giornali mi dissero no, non si può parlare di via Rasella, guardo il senatore presidente anche se adesso cede lo scettro, perché bisognava parlarne con grande garbo, ma dovete considerare che accade la stessa cosa ad esempio mica in anni lontanissimi quando morì Mitolo, sto parlando di Andrea. Di Pietro, se vi ricordate le pagine scritte, qualcuno contestò addirittura questo modo di ricordare Mitolo perché era la storia rovesciata. Questo ha fatto Gigi Sardi riprendendo dalle cronache del tempo articoli, mettendoli insieme e di fatto facendo quello che lui fa oggi molto bene, cioè l'inviato nella cronaca che diventa storia. E lui sta molto attento nei suoi libri, nei suoi scritti, a non fare l'inviato nel 1200, nell'800, nel 1400, lui fa l'inviato nella cronaca che diventa storia, per cui ci racconta di Mussolini e De Gasperi, ci racconta di Battisti, ci racconta cose che non riusciamo più a definire, ma che di fatto sono comunque frammenti di cronaca che diventano appunto storie. Allora io su questo, Gigi, la prima cosa che ti voglio chiedere è dove inizia il ricordo e dove inizia la storia, nel senso che un cronista che comunque ha passato i 18 anni da qualche anno come te, per cui ci sono delle cose che ricorda per sentito dire, delle cose che ricorda perché ha incontrato i testimoni, delle cose che ricorda perché fa lo storico oggi di un presente che non è poi così lontano. Dov'è il confine? Cioè com'è che decide l'approccio il giornalista che si autoinvia nella storia recente che forse ci dimentichiamo troppo in fretta? Allora, anzitutto ti ringrazio. Anzitutto il ricordo nasce da questo libro scritto nel 1979 da Umberto Gandini, forse il più importante giornalista dell'Alto Adige. Voglio ricordare che quando noi giovani cronisti si andava a litigare con l'ortografia, la grammatica, la sintassi, lui traduceva dall'italiano al tedesco, dal tedesco all'italiano, scriveva in latino, scriveva lavori teatrali. Lui andò a 1979 appunto da maso in maso, da paese a paese, a trovare quelli che erano i superstiti del battaglione Bose. Non fu facile trovarli tutti, li incontrò, li intervistò, si lasciarono intervistare e da lì nasce una storia assolutamente inedita, cioè la storia dell'attentato di via Rasella visto dall'altra parte. Poi dopo ci sono tutti gli episodi che si accompagnano in qualche modo alla vicenda e soprattutto hanno come comune denominatore, direi minimo comune denominatore se vogliamo, nella figura di Herdy Kappler, il maggiore delle SS, quello che però rimane dopo via Rasella, dopo le fosse ardeatine, però segna profondamente la storia della nostra regione e soprattutto la storia della nostra regione. Quindi un racconto che ha radici profonde nel passato remoto e che però adesso torna di attualità anche perché se per 50 anni o 60 anni si era parlato, ad ogni anniversario si erano aperti fortissimi e violenti dibattiti sulle responsabilità, sulle colpe, su questo, su quello, su quell'altro, da dieci anni a questa parte la storia di via Rasella e la storia delle fosse ardeatine è quasi completamente, non dico cancellata, ma direi scordata. Ma perché è così difficile, Gigi, aprire questo pezzo di storia? Cioè perché è così faticoso oggi per questo paese fare i conti col proprio passato? Perché molto è una storia nella grande tragedia, quella che fu la tragedia della grande guerra. Questa forse è la storia più drammatica, è la storia più difficile. Ricordiamo appunto nel passato, non un passato remoto, un passato prossimo, che alcuni affermarono che l'attentato partigiano di Rasella era giustificato, altri dissero, e qui ci fu un grandissimo dibattito, che era stato sbagliato perché la liberazione di Roma ormai è portata di mano, altri affermarono che i partigiani che avevano compiuto quell'attentato dovevano assolutamente costituirsi perché così era stato chiesto dai tedeschi. Non è vero, i tedeschi non chiesero nulla, presero semplicemente nel corso della notte successiva all'attentato di via Rasella gli ostaggi, li consegnarono e li portarono nelle cave nelle fosse ardeatine e li trucidarono. Semmai si poteva ricordare che dopo l'8 settembre del 43 sul giornale Il Brennero, che aveva anche una certa diffusione qui, minima diffusione qui sul Tirolo, comunque nella città di Bolzano, ecco, era apparso un comunicato, un documento incorniciato. A Roma il feldmaresciallo Kesselring ha fatto pubblicare un manifesto nel quale si legge che è stato proibito ogni sciopero e ogni atto di sabotaggio o comunque di sobillazione, e per questi reati si procederà contro i colpevoli con giudizio sommario. Nel caso che il colpevole non sia identificato, 10 cittadini italiani saranno arrestati e processati. E qui finisce il comunicato. Il comunicato non dice, il giornale non dice, non scrive che saranno fucilati. Questo è l'unico documento pubblico, l'unico documento che ho trovato, altri credo non ce ne siano, che racconta, che precisa che se per ogni tedesco ferito, ucciso, ci sarà una rappresaglia. Il calcolo Gigi è spietato perché muoiono 33 persone, ricordo, in via Rasella, 335 le fosse ardeatine. Sono abbondanti. Beh, abbondarono, certo. Ecco, su questo e questa abbondanza, questi uccisi in più, questi assassinati in più, sono per questa ragione Kappler verrà condannato all'ergastolo. Perché la rappresaglia era comunque contemplata da aperte virgolette leggi, chiuse virgolette, di guerra, contemplata dalla convenzione dell'AIA, contemplata, mi pare di ricordare, da Ginevra, eccetera, e comunque era ritenuta giustificata. E probabilmente fra le rappresaglie compiute in quel periodo tremendo che va dall'8 settembre del 43 alla fine della guerra, quella di via Rasella probabilmente è la rappresaglia più feroce, più inutile, più drammatica. E perché è così difficile scriverne ancora, mentre alla fine degli anni 70 giornalisti coraggiosi come Umberto seppero farlo? Perché oggi forse non c'è più la voglia di andare a scavare nella storia, forse perché il giornalismo è radicalmente cambiato. Tu prova a pensare se oggi un cronista del tuo giornale, anche il più bravo, si prende la briga di andare a intervistare vaso per vaso, raccogliere in tutti i paesi sperduti, allora erano paesi anche difficili da arrivare, non c'era il telefonino, il telefono era una difficoltà, andare a raccogliere e farsi consegnare dai superstiti da questa gente, da questa gente la storia, la vera storia, la storia vista dall'altra parte, con anche un'affermazione estremamente precisa. Questi soldati si rifiutarono di compiere la rappresaglia, dissero no ad un ordine di Hitler, e dire un nein, dire un no allora era estremamente difficile, perché si poteva essere immediatamente fucilati. Dissero un no adducendo due, tra virgolette, io le chiamo scuse, due idee. Uno, c'erano cattolici, erano molto cattolici, e dall'altra parte non erano abituati all'uso delle armi, quindi si rifiutarono. Questo pena la storia. Oggi sarebbe molto difficile trovare un cronista, un giornalista, un inviato che si reca a fare un lavoro di questo genere, anche perché probabilmente non verrebbe forse pubblicato, come venne pubblicato invece allora, parliamo di molti anni fa, oddio, quando si fanno queste cose ci si accorge di come è passato il tempo, perché grazie al giornale Alto Adige, all'allora direttore del giornale Alto Adige Gianni Faustini, che abbia la brillante idea di raccogliere i servizi di Umberto Gandini, delle intere terze pagine scritte a macchina, corrette a mano per evitare gli errori di stampa, eccetera eccetera, un lavoro estremamente faticoso, tradurre dal dialetto, dal tedesco all'italiano, tradurre dal dialetto all'italiano, raccontare questa storia. Oggi credo che sarebbe assolutamente impossibile. Sì, ma non è solo questione di giornalismo, è anche questione di passione civile, è anche questione... aspetta, più ci sono, ti sento. Non è solamente questione di giornalismo, che oggi si fa un giornalismo diverso, è questione che la passione civile di oggi evidentemente non è quella del 1978. La domanda secondo me è questa: perché non ti viene la voglia come giornalista, perché non ti viene la voglia di fare una cosa? Questo è il problema che io mi pongo e che pongo ai nostri amici. Perché? Per cui rovesci la domanda su di certo. Me? Rovesciamo la domanda su certo. Di te. Certo. Io che pensavo di fare le domande. No, allora ti rispondo rapidissimo. Da una parte c'è un problema, cioè Gigi viene accusato come pansa di revisionismo. E questo è il primo problema, cioè in Italia si tende sempre a stare in un alveo, è sempre difficile uscire dall'alveo, e ti sto parlando adesso di chi fa non solo questo mestiere, ma di chi prova anche a storicizzare questo mestiere. E dall'altra ti dico, ed è molto banale, che mancano i testimoni, manca quel tempo, nel senso che oggi per me, e vi sembrerà assurdo, ma Via Rasella si chiama Vitalizi, cioè stiamo scavando nella questione di Vitalizi. Nel 79 Via Rasella aveva 35 anni e era importante ricostruire quella memoria. Oggi stiamo ricostruendo altre memorie, forse il lettore ha bisogno di capire il presente per decifrare in qualche modo il futuro. Il passato è assolutamente straordinario e utile, però è diverso l'approccio col passato, perché io vi faccio un esempio: oggi non mi capita, perché alcuni di voi vedo sono grandicelli, però a me spesso capita in una sala come questa di iniziare a dire perché dopo Tangentopoli, e vedere alcune facce che improvvisamente si perdono, cioè di cosa starà parlando quell'uomo strano? E sto parlando del 1992. Allora, per riprendere queste persone, inizio a dire: dovete sapere che in questo strano paese del 92, oggi quando con Marco Forni prima parlavo di questo ardito esempio e un parallelismo che io ho fatto l'altro giorno fra Matteo e Alcide, che l'ho fatto per una forzatura ovviamente, per dire che un successo tale di un partito e di un uomo non si vedeva dal 1958 nell'ultimo caso, che quello di Fanfani, qualche anno prima con De Gasperi. E mi accorgo che se uno inizia a parlare non di De Gasperi, ma di una cosa che si chiama Democrazia Cristiana, che ha avuto il paese in mano per 50 anni, ti guardano come se tu fossi un UFO. Allora io dico, da una parte certo è importante storicizzare, è importante raccontare, però è importante anche dare radici al presente, per cui oggi un giornalista che va, come dire, ad approfondire il presente facendosi raccontare quello che accade, lo fa magari su cose che arrivano al 1990, al 1995, sono comunque 30 anni fa, 25 anni fa, 20 anni fa, per cui non è molto cambiato. È molto cambiato semmai un'altra cosa, ed è questa, che se Gandini tornasse oggi, ovviamente facciamo finta che tutti i testimoni potessero essere ancora in vita, Gandini invece per fortuna ogni tanto scrive ancora qualche bella pagina per il nostro giornale, se Gandini tornasse in quei luoghi sapete cosa troverebbe? Troverebbe qualcuno che lo piglia male parole perché il giorno prima è passato Ballarò, due giorni prima chi l'ha visto, poi sono passate le Iene per cercare di raccontare una cosa e in paese stanno cercando il Gabibbo. Ma è ancora più interessante perché se Marco Forni presenta, scusa Marco se ti utilizzo, ma presenta il suo nuovo vocabolario strepitoso, si sente dire è accaduto in Alto Adige, alla presentazione di un libro abbastanza importante, all'autore hanno detto domani però viene il Gabibbo, per cui domani vedrà che la sala si riempie. Cioè questo è anche il paese con il quale noi tentiamo ogni giorno di comunicare. Io dico, se siamo qua in questo momento, se abbiamo ospitato i pezzi di Gigi Sardi che hanno raccontato questi pezzi di storia, se il giornale ha voluto ricostruire questo pezzetto di storia oggi, è perché siamo convinti che ci sia non solo bisogno di presente ma anche un grande bisogno di passato. Io semmai, Pinuccia, poi mi fermo, sono preoccupato per un'altra cosa, cioè per quando quelli come Gandini, quelli come Gigi, quelli come altri, vedo anche Giancarlo in sala ma anche altri colleghi che hanno qualche anno, ecco, quando quelli perderanno il gusto della memoria, questo mi spaventa. Ma mi spaventa come italiano, non mi spaventa come giornalista, mi spaventa italiano non inteso in senso etnico ovviamente, come cittadino di questo paese. Un personaggio abbastanza interessante, era uno che si chiamava Hegel, ha risposto a questa tua preoccupazione e ha detto: chi non conosce la propria storia è destinato a ripeterla. Ahimè. Torniamo a Sardi, ahimè, è già successo, chi non conosce la propria storia succede ogni giorno, per cui torniamo a Sardi. Poi vabbè, no, nel caso però, come dire, c'è anche qualcuno come De Gasperi che ha fatto effettivamente sia giornalista che politico, per cui ha avuto una responsabilità più importante, altri raccontano solo le gesta di chi ha fatto questo, ha fatto quello. Gigi, volevo chiederti un'altra cosa, ed è questa, e poi ci parli magari di Kapler, perché Kapler è una pagina ancora oscura, in parte grottesca, in parte drammatica, come quasi tutte le cose italiane, no? Perché c'è un confine labilissimo fra il grottesco e il drammatico. Però io invece volevo chiederti un'altra cosa, ed è questa, cioè in queste poche pagine c'è, hai detto bene, la regione, questa terra, però c'è anche tutta l'Italia, perché ci sono i personaggi politici che hanno segnato un pezzo importante della storia di questo paese, cioè tu citi certo De Gasperi, ma citi anche Moro, citi anche Andreotti, tu citi i personaggi che hanno importanti in questa terra, cioè la dimostrazione che comunque in quel momento il paese era in un certo senso più piccolo. Cioè, oggi si ha la sensazione per esempio che a Roma non capiscano nemmeno i dettagli di quello che succede qui, ma nemmeno le cose macroscopiche. Ci si chiede non tanto se Renzi, se Letta, se Berlusconi o se Prodi capiscono cosa è successo in Alto Adige, però c'è anche un problema nella classe politica, no? Di costruire memoria. Invece tu dimostri in questa trama che ogni filo però riporta anche al paese, un paese che era molto attento a quello che succedeva qua, viceversa aveva interlocutori di un certo tipo, ricostruisce una storia che vede appunto noi come pezzo di ombelico, ma attorno comunque c'è un filo molto importante. Ma sai, dobbiamo ricordare che c'erano anche uomini della politica e della cultura estremamente importanti, estremamente preparati. Cioè la storia che nasce attorno a Via Rasella, alle fosse ardeatine, viene coltivata, viene portata avanti da personaggi di spicco della politica che oggi non ci sono più o sono estremamente rari. Abbiamo personaggi della cultura, per esempio nel Trentino, solo nel Trentino e nell'Alto Adige avevamo degli storici di eccezionale spessore. Adesso nel Trentino e nell'Alto Adige abbiamo degli studiosi di storia, abbiamo delle persone che scavano negli archivi, ma lo storico vero non esiste più. Probabilmente non esiste più neanche nessun Tirolo, insomma. Cioè personaggi che hanno raccontato, che hanno vissuto un'epoca, hanno raccontato una storia, l'hanno analizzata. Oggi anche la comunicazione è rapidissima, internet, la televisione, questa sera apriamo la televisione, veniamo inondati un sacco di notizie che domani noi non ricordiamo più, insomma, perché se poi guardiamo internet, ci perdiamo, forse perché siamo anche poco capaci di usarlo, ma comunque ci perdiamo. Cioè, qui abbiamo persone dello spessore di Pertini, abbiamo persone dello spessore di Andreotti, abbiamo un personaggio come Alcide De Gasperi che in quegli anni, che in quei momenti, che in quel giorno sente lo scoppio della bomba e si domanda e chiede, e poi si rivolge a quelli del Partito Comunista e dice: voi Big Up un anno fa, cioè un anno fa, una ne pensate, mille ne fate. C'è questo personaggio che c'è, che comincia la sua vita. Persone come Alcide De Gasperi, come Pertini, un po' difficile trovarli adesso, cioè, abbiamo Grillo, forse qualcosa, non so, mi fermerei. Non so, lo diremo fra cent'anni. Fra cento anni, però insomma, cioè, mi pare che ci sia un abisso di statura intellettuale, di statura morale anche, di statura intellettuale soprattutto. Sì, questo direi. Sì, allora c'erano personaggi di spicco, oggi si potrebbe dire ci sono personaggi di spacco, no? Cioè quello di spaccone, purtroppo forse c'è. Personaggi. Lucia, la tua voce, facci sentire la tua voce, anche come editrice, cioè nel senso che a proposito di questione civile, no? Di ruolo civile, di impegno civile, anche gli editori, no? Possono raccontarla e tenerla viva la storia. Il problema è proprio questo disinteresse di cui stiamo parlando da metà mezz'ora, cioè perché io mi. Non si sente niente, giralo. Ecco, così. Il problema è che io mi chiedo, ma possibile che non riesco, la domanda la pongo a me stessa, ma possibile che non riesco a capire, non riesco a individuare la ragione per la quale oggi non ci si interessa di storia? Io faccio prevalentemente libri che riguardano la. Ma insomma, sembra di parlare. Ma perché? Qual è il motivo? Questa è la cosa che mi angustia. Perché no? Perché siamo sommersi? No, io penso che invece si è proprio affievolito l'interesse, anche il piacere di conoscere. E tante volte io mi domando, ma gli istituti, le istituzioni che sono preposte a insegnare per esempio la storia, dico per esempio la scuola, che cosa passa a scuola della storia, che cosa si impara a scuola? Io vedo degli amici insegnanti qui, ogni tanto parlo con degli studenti, la prima guerra mondiale, ma cos'è? Ma quand'era? Ma mi domando, ma per quale motivo? Ci fermiamo le guerre puniche, voglio dire. Ma no, cioè mi domando per quale motivo oggi non c'è. Non so rispondere a questa domanda. Per quale motivo? Perché non mi basta dire che è perché c'è una grande quantità di informazione, perché c'è una grande quantità di. Non mi basta questo. Le ragioni devono essere altre. E questo è che mi preoccupa moltissimo, appunto come editore io continuo a fare informazione storica, l'interesse è assolutamente piccolo, è minimo, si fa una fatica enorme proprio. Le istituzioni non ti aiutano assolutamente, e allora mi chiedo veramente dove stiamo andando. Questa è la domanda. Dove stiamo andando? Questa è la domanda che pongo proprio a me. Io continuo a fare il lavoro che sto facendo. Credo che continuerò a farlo finché vivrò. Però io questa domanda io la pongo. Però d'altra parte io vedo che siamo qui in una sala, saremo in una cinquantina di persone. Tutte interessate, per cui non lamentarti, perché sono tutte persone interessate. Ecco, tutte interessate, ma allora dov'è il problema? Ma è l'età? Come? L'età, perché siamo tutti di una certa età, no? L'età. I giovani mancano qua. No, questo è già una risposta. L'età. Allora, le persone di una certa età si interessano più della storia che non è. E perché, i giovani non? Allora andiamo all'altra domanda: perché i giovani invece no? Che cosa passiamo noi ai giovani? Noi come genitori, noi come famiglia, noi come scuola, noi come chiesa, noi come istituzioni, che cosa insegniamo? Uso la parola insegniamo, anche se era stata bandita ai miei tempi quando io insegnavo. Cosa insegniamo ai giovani? Voglio che qualcuno mi dia una risposta. Beh, qua ci sono tanti insegnanti, mi pare di vedere. Piangersi addosso non va bene. Non risolve niente le cose. Noi abbiamo come funzione quello di proteggere questa memoria, perché riteniamo che questa memoria ha aperto una strada. E su quella strada tutto il nostro paese dovrà viaggiare, perché è una strada che ha scolpito dei diritti per tutte le generazioni che verranno. Non è vero che la scuola non fa niente. Noi abbiamo accompagnato due classi delle scuole di Merano, che sono state preparate prima, attrezzate storicamente, e le abbiamo accompagnate a Montesole. Sapete dov'è Montesole? È la zona di Marzabotto, dove i nazisti hanno completato le stragi che avevano iniziato la Fossa Albertina. Quegli studenti si sono resi conto che cos'è Marzabotto, che cos'è Montesole, il cuore bruciato di quella che è stata l'opposizione e la resistenza all'occupazione straniera che abbiamo avuto all'interno del nostro paese. Perché anche le Fosse Ardeatine, si deve pensare che è una lotta contro un'occupazione straniera, e occorreva, questo era l'ordine che veniva da anche degli americani che erano sbarcati anzi, che occorreva dare un segno che la popolazione non era dalla parte dei nazisti. Roma era stata, noi abbiamo una certa familiarità con l'operazione Zone. Roma in quel periodo era stata trasformata in operazione Zone, non era più la città aperta della capitale, era operazione Zone. I GAP, gruppi di azione patriottica, da non confondere con un'altra cosa, avevano già agito nel dicembre del 1943. I GAP avevano attaccato l'albergo Flora, che era il tribunale germanico a Roma. I germanici avevano insediato a Roma addirittura il tribunale, e i GAP avevano agito contro il tribunale. Prima dell'azione eroica di Via Rasella, i GAP avevano agito in un'altra occasione, attaccando un corteo di fascisti che manifestavano a Roma. Certo. Questo è l'ambiente che viene fuori. I sudtirolesi sono stati colpiti varie volte dalla ferocia fascista da una parte e nazista dall'altra. Sono stati i sudtirolesi, quelli lì, già, che avevano già fatto il soldato sotto l'Italia, perché era obbligatorio andare, venivano recuperati, e guarda caso li mettevano fra le SS, perché il battaglione Bozzi era un battaglione che aveva i bravi sensi nella giacca, passeggiavano con aria spavalda per Roma, perché ogni giorno una delle cose che ha provocato Via Rasella è che sono stati abitudinari e spavaldi e sbruffoni, perché facevano il medesimo percorso tutti i giorni cantando lungo la piccola salita di Via Rasella, e questo ha dato la possibilità agli eroici partigiani che hanno fatto questa cosa, che non era uno solo, non era solo lo spazzino che ho conosciuto personalmente, vi racconterò, che è venuto anche a Bolzano per difendere il suo onore, Rosario Bentivegna, hanno dato la possibilità ai partigiani di compiere quell'attentato. L'attentato addosso alla massa di soldati che non erano proprio in abiti da contadino. Passeggiavano armati con una mitraglia pesante davanti, una mitraglia dietro, con la machine pistola sotto il braccio e con 6 bombe a mano alla cintura. Questo era quello che Via Rasella che passava per Roma. Grazie. Ecco, l'attentato è costato 33 morti, 31 più 32. Torno a Sardi, Pinuccia, poi arrivo, perché se no divaghiamo troppo. Sì. Mi permetto solo di dire che la storia è un po' come la vernice, se è troppo fresca non funziona, nel senso che per chi ci insegna di più la guerra punica, perché probabilmente non è più così fresca, abbiamo bisogno di aspettare forse ancora qualche anno per leggere in altro modo quelle storie. Mi permetto però di dire anche al senatore che per esempio su Marzabotto è stato fatto un film bellissimo, cioè cambiano i linguaggi, cambiano i modi, ma se cambiano, direbbe Vendola, le narrazioni. Adesso l'ho sentito dire persino da politici di destra questa parola narrazione, come se fosse una parola da usare con cura. In realtà cambia la narrazione, però se si riesce a raccontare a un giovane la storia di Mazzabotto attraverso un film, ben venga quel film. Se poi si mette Cremonini, un personaggio che piace ai giovani, in alcuni film che raccontano pezzi di quella storia, meglio ancora. Vi racconto un episodio che mi ha raccontato Valerio Massimo Manfredi, che è uno che sulla storia ha venduto milioni di copie in questo paese, non nella giungla. Ebbene, lui aveva voglia di scrivere delle cose e l'editore gli ha detto: no, ma molto forte questo Ramsete, stanno vendendo un sacco di copie questo Ramsete, perché non ti metti a scrivere di Ulisse? E lui si è messo a scrivere di Ulisse, in un certo modo ha venduto milioni di copie in questo paese. E se gli avessero detto: perché non ti metti a scrivere, non dico di Mussolini, non dico di Kapler, non dico, perché c'è questo problema, è facile scrivere di Ulisse, chi è che porta le ferite rimarginate o non rimarginate di Ulisse? È un po' più difficile scrivere di Mussolini, scrivere di Kapler, scrivere di Bozner o scrivere di partigiani, scrivere di eroi, perché Lionello sa bene che alcuni avrebbero detto come eroi e il dibattito si sarebbe riaperto. Allora io chiedo di parlarci un po' di Kapler, Gigi Sardi, poi torniamo a Pinuccio, che sicuramente ha molte cose da dire, ma raccontaci un po' di questo misterioso Kapler, perché per alcuni di noi Kapler è l'uomo della valigia, è quello che riesce a sparire come se niente fosse in questo mistero italiano, e tu invece vai molto più indietro nella storia e ci racconti un primo Kapler, e probabilmente ce ne sarebbe anche un terzo da raccontare, no? Perché poi noi ci siamo fermati alla valigia, no? Siamo fermati alla valigia, sì, noi ci fermiamo alla valigia, questa valigia che viene calata dalla, da Annalise Kapler dall'ospedale del Celio con una fune nella valigia è richiuso Kapler, eccetera. Non sarebbe, è, no? Sarebbe. Immaginate, no? Questa scende, moglie che mia scende. Moglie sarebbe ancora lì, poveretta, disperata, con me in una valigia, che cioè, io avrei sfondato la valigia. Ma immaginatevi la scena, solo in Italia può succedere questo. No? Solo in Italia. È evidente che è uscito in altro modo. E tutti i giornali presero per buona la storia della valigia calata dalla finestra a corda doppia. E una cosa che potrebbe essere interessante è questa, che questo Kapler che fugge, esce dalla valigia, viene caricato su un'auto, era una Fiat 132 di color rosso, targata, quindi anche piuttosto visibile, no? Targata Roma, prese a nolo dalla ERSA all'aeroporto di Fiumicino, corre nella notte del Ferragosto del 1977 lungo le autostrade, compreso quella del Brennero, e guarda caso fonde il motore alla stazione di servizio Paganella Est, chi percorre l'autostrada se la presente, Paganella Est, pochi chilometri a nord di Trento. Fonde il motore perché qualcuno callidamente, con una chiave speciale, ha aperto la vite, non so come si, il tappo, diciamo che il tappo che c'è sotto il serbatoio dell'olio, fa girare il motore per qualche minuto, il motore si fonde, e i colleghi Enrico Bortolamedi del giornale Alto Adige con il fotografo Claudio Libera arrivano sul posto fra i primi e vedono questa auto rossa. E lì su quest'auto poi si viene detto da Roma che c'era Kapler fuggito e poi da lì partito chissà dove con qua. Invece la verità è completamente diversa. La verità ce la racconta per esempio il colonnello Amos Piazzi di Cortereccia, quello della Rosa dei Venti. Amos Piazzi, ve lo ricordate, altre pagine buie di questo paese, ma soprattutto del Sud Tirolo, della Rosa dei Venti, eccetera eccetera, che era ricoverato nello stesso ospedale, nello stesso Celio di Roma, ed era camerata compagno di Kapler. Beh, la cosa è molto semplice. La sera di Ferragosto, i due carabinieri di guardia che poi verranno arrestati, accusati, processati e condannati, vengono, uno con una scusa, la moglie di Kapler offre a un carabiniere una fetta di torta, l'altro si allontana un attimo per andare al bagno, e Kapler scende con l'ascensore, scende al piano terra dell'ospedale, imbocca la porta e se ne va, protetto dagli uomini dei servizi segreti italiani, accompagnati dagli uomini dei servizi segreti tedeschi. I segreti tedeschi avevano deciso che insomma la Kapler ormai era molto malato, stava morendo, insomma aveva un tumore irreversibile, si poteva riportarlo in patria, dove venne accolto con i massimi onori. E dopo abbiamo i giornali dei settimanali dell'epoca, qualche anno dopo, che personaggi come che erano ai vertici dei servizi segreti, il generale Viviani per esempio, ex capo del controspionaggio, racconta la verità della fuga del 14 agosto 1977, sono stati i nostri 007 a portarsi via Kappler. E poi un'altra rivelazione, un accordo Roma-Bonn per liberare Kappler. Naturalmente su queste affermazioni si apre come sempre la solita inchiesta giudiziaria, che in Italia adesso non lo so, ma quando io facevo il cronista giudiziaria le inchieste particolarmente scottanti si aprivano con grande fragore, come si apre una finestra, con grande fragore, conferenze stampa, notizie che venivano fatte filtrare, allora non c'era, insomma, notizie che sfuggivano al pubblico ministero, al procuratore della Repubblica. Passava qualche settimana e sul giornale l'interesse andava ovviamente scemando fino a sparire del tutto, e a un certo momento l'inchiesta, la finestra dell'inchiesta aperta con fragori, si andava a richiudere nel più assoluto silenzio. Naturalmente l'ex ministro Lattanzi, allora democristiano, che era ministro mi pare della difesa, adesso non ricordo, dice insomma: a me avete detto che era fuggito in una valigia e ho creduto della valigia, adesso scopro che sono stati i servizi segreti, voglio il generale dica sul suo onore di soldato qual è la verità. Non è di soldato di certi generali, forse, ma non voglio discutere su questo, però la verità è molto semplice. Aggiungo una cosa, un anno dopo la morte di Kappler venne a Trento Annalise Kappler, la moglie, e venne a Trento invitata e accompagnata da un gruppo di persone che di tanto in tanto, adesso per fortuna non appaiono più, che vogliono ripristinare il culto del beato Simonino, quello ucciso dai perfidi ebrei, eccetera, eccetera. Venne al giornale attuale, chiese di parlare con me, persona che molto simpatica, molto, parlava un italiano splendido, e l'accompagnai al bar di Via Dordi, perché il bar sotto il giornale era chiuso, accompagnai al bar di Via Dordi, lei ordinò un cappuccino con molta panna e mi chiese, se mi disse con molta chiarezza, molta precisione, lei deve insomma, io voglio raccontare la verità sulla fuga, aperte virgolette, di mio marito, però lei deve, nell'articolo deve dire che mio marito è stato un ufficiale, adesso non ricordo il termine preciso, integerrimo, corretto, un ufficiale, insomma sì, d'accordo, tutto quello che volete, però un ufficiale galantuomo. Allora io rimasi un attimo perplesso, però dico, le feci notare che quell'ufficiale aveva sparato nella testa due italiani e la nostra, e non avevamo altro da dirci, insomma. Probabilmente ho perso lo scoop della verità sulla fuga di Kappler, però non mi sembrava il caso di poter dire che Kappler era un ufficiale integerrimo, anche perché forse integerrimo non lo era, visto che lui dal carcere, prima carcere Dorato, ci mancherebbe altro, e dall'ospedale, nel quale ospedale sia ben chiaro, lui era completamente libero, cioè lui era un detenuto con appena sospesa, lui poteva uscire quando voleva dal cellio, non usciva più per una ragione molto semplice, perché stava molto male, però fino a qualche mese prima che la malattia diventasse grave, diventasse irreversibile, lui poteva tranquillamente uscire dal cellio quando veniva sua moglie a accompagnare sotto braccio, non solo, ma due carabinieri in borghese lo dovevano accompagnare onde evitare che magari venisse aggredito. Quindi era un cittadino perfettamente libero quando uscì dal carcere, solo che quando uscì dal cellio, quando uscì dal cellio, uscì spontaneamente dal cellio. Ecco, lui per molti anni però si era interessato con altre belle figure di quell'epoca, tutte figure estremamente importanti della Germania di allora, si era interessato al famoso, alla storia dell'oro di Fortezza, quell'oro che Kappler aveva preso alla Banca d'Italia a Roma subito dopo l'8 settembre del 43, caricato su due autocarri o su un treno, adesso non ricordo molto bene, portato prima a Milano e poi portato a Fortezza e lì tenuto prima di essere spedito in parte in Germania. di quell'oro, secondo l'inchiesta giudiziaria aperta allora dal giudice istruttore del Tribunale di Trento Carlo Palermo, mancavano 2 quintali d'oro, per specifico dell'oro, quindi non era proprio una cosa. E per anni c'è una. Cioè, questo è documentato, ci sono i documenti, ci sono i fax, allora c'erano i fax, questi documenti sono stati trovati dall'inchiesta giudiziaria. Per anni questi personaggi si sono interessati all'oro di Fortezza. Quale oro di Fortezza? Probabilmente giaceva, adesso non ci giace più perché fino al 2000 era di proprietà, cioè in una banca svizzera, la banca svizzera. Dopo il 2000 non si è più saputo nulla di quest'oro, anche perché nessuno se n'è più curato. Comunque questo oro doveva servire a rendere più comoda la latitanza, la fuga in Argentina di chi viveva, di quei criminali nazisti che vivevano in Argentina. Kappler poi comparirà ancora in un processo di corte d'assise a Trento, uno dei primi processi celebrati in corte d'assise a Trento, come testa di scarico di un sottotenente dell'SS che aveva arrestato, tra virgolette, ma stuprato in maniera terrificante e poi ucciso con un colpo di rivoltella alla nuca fra Roncegno e Levico una partigiana che si chiamava Giacone, e che il suo corpo venne trovato a Levico e riesumato a fine della guerra, riconosciuto dal padre, eccetera. Lui venne alla corte d'assise di Trento, si presentò, la cronaca del giornale Alto Adige è molto precisa e molto perfetta direi, si presentò in maniera impeccabile, vestito in maniera molto, molto elegante, fece il suo inchino e non difese più di tanto, come teste a discarico, non difese più di tanto il suo subalterno, questo ufficiale, questo stupratore, questo violentatore e anche omicide. E anche assassino. Questa è un po' la storia di Kappler, insomma. Quella che più o meno si. C'è un'altra vicenda che si sta cercando, è che Kappler venne poi incaricato, non so bene da chi, di analizzare il comportamento dei soldati tedeschi che, assaliti a Stramentizzo all'inizio della Valle di Fiemme, compirono la famosa strage a Stramentizzo. Lui fece un verbale che lo dovrebbero consegnare nei prossimi giorni alla Biblioteca Comunale di Trento. Visto che citavi il giudice Carlo Palermo, volevo solo dirvi una cosa divertente sulla memoria presente. Sull'Alto Adige, quando è uscito l'articolo che raccontava di questo libro di Gigi Sardi, devo dire non ho ricevuto né una lettera né una telefonata, il giudice Carlo Palermo si è chiamato Francesco Palermo, cioè come il senatore, per dare un'idea di cosa sia a volte la memoria storica. Però la cosa che mi ha incuriosito è che io me ne sono accorto, ahimè a volte succede anche in direttore di accorgersi di alcune cose il giorno dopo, e ho pensato chissà quante lettere, chissà quante telefonate scriverò di gente che mi dirà ma come avete chiamato Carlo Palermo Francesco Palermo. Invece, con mia gioia da una parte e con mia tristezza da un'altra, non ho ricevuto nemmeno una telefonata, perché tutto sommato va bene che Palermo si chiami Francesco, a patto che faccia quell'inchiesta e che poi magari Carlo invece, che peraltro ha fatto anche Carlo Palermo un po' di politica. Adesso ad esempio Sardi mi diceva di Via Dordi, il bar di Via Dordi, ma Via Dordi è un giudice che ha lavorato a Bolzano, è un giudice che è morto in modo misterioso, cioè per dire non stiamo mica andando lontani, però Dordi è invece un nome banale, no? Per molte persone che percorrono ogni giorno quella via o che vanno al bar Dordi insieme a Gigi Sardi. Ti voglio far dire una cosa cattiva della Chiesa, perché tu scrivi a un certo punto, chissà mai poi se corrisponde a verità o fantasia, il passaggio di alcuni criminali nazisti in fuga per i silenti corridoi del seminario minore di Trento. Non c'è una prova provata, non c'è un documento, ovviamente, forse i documenti sono dei cassetti profondi e segreti di qualche curia, non so dove, però testimoni dell'epoca, a cominciare per esempio da, adesso mi sfugge il nome, ma persona mi verrà in mente il nome, ve lo dirò. Tipo Igino Roger, dice, cioè un personaggio così o della Chiesa? No, non della Chiesa, era un uomo della politica, l'assessore se mi sfugge il nome adesso, Pancheri che aveva fatto il partigiano, eccetera. Enrico Pancheri che aveva fatto il partigiano, che aveva poi nascosto negli anni del 1948, aveva nascosto delle armi nelle soffitte del seminario in attesa dello scontro, dell'inevitabile scontro con i comunisti. Raccontava a noi cronisti, ma devo dire che noi eravamo estremamente distratti, di quelle cose non ci importava nulla, e questo forse non importava nulla, che appena finita la guerra, nei conventi, ma soprattutto nel seminario minore di Trento, passarono alcuni personaggi che avevano una caratteristica: parlavano bene il latino, erano personaggi di grande cultura, si presentavano molto bene, però avevano abbracciato la religione cattolica, e quindi venivano spediti chi in Cile, chi in Argentina, comunque convinti ad andare o aiutati ad andare in Cile e in Argentina, in attesa magari di richiamarli, perché loro sapevano come si dovevano trattare i russi, come si dovevano trattare i comunisti. Questa è un'ipotesi, non c'è un documento preciso, però da tutte le parti, quando si va negli archivi, si cerca qualche cosa, compare quest'ombra della Chiesa che avrebbe coperto questi personaggi, i quali però, abbracciando la religione cattolica, si erano pentiti e quindi andavano molto bene. Questa è una mia versione personale. Sarebbe piaciuta a Gandini, però, questa. Pinuccia? Io niente, riprendo quell'osservazione di prima. Se non si vuole essere vittime della storia o testimoni, come diceva la signora di Celletà, noi l'età, perciò noi ci ricordiamo e quindi noi ci interessiamo, perché se non si vuole essere vittime o testimoni, rimane il fatto che la storia dovrebbe essere conosciuta in maniera più sistematica. E mi ricordo, io che ho fatto anche i miei 20 e più anni di scuola, mi ricordo tempi quando accanto alla storia istituzionale si insegnava anche l'educazione civica, e non ho mai capito per quale motivo questa educazione civica, che cos'è la Costituzione, che cos'è sono i comuni, cioè l'educazione del cittadino, non ho mai capito per quale motivo a un certo punto dai programmi ministeriali l'educazione civica sia letteralmente scomparsa, e continuo a non capire per quale motivo non se ne senta l'esigenza. Cioè, temo che sia perché è sparita anche dal Parlamento, per cui immagino che di conseguenza si possa raccontare una cosa che non esiste in Parlamento. Ecco, quindi accanto all'esigenza della narrazione, perché è vero quello che dicevi tu prima, è vero che la storia deve essere narrata e non deve essere la storia è vita, quindi è giusto che la storia sia narrata perché è la storia, ma accanto alla narrazione, secondo me, sarebbe necessario, urgente, urgentissimo, un'operazione sistematica di conoscenza della storia, se non si vuole, come accennavo prima, essere destinati a dimenticare, essere destinati a riviverla. Ecco, questa è la mia preoccupazione come cittadino, come editore, perché questo è il mio mestiere, io. E come giornalista, certamente. Un editore, per esempio, può dialogare in modo nuovo con la scuola, può chiedere a un assessore illuminato di finanziare un progetto che porti una storia recente dentro le scuole altoatesine? Lo può chiedere, cosa ma può fare? Dovremmo avere un assessore illuminato, però. Beh, innanzitutto occorre l'assessore illuminato, come dice Gigi, e occorre da parte delle istituzioni, prendiamo l'assessore, la disponibilità, l'interesse. Io lo sento sempre meno, questa cosa francamente, Alberto, mi dispera. Non lo so. Noi faremo uno speciale Chi l'ha visto sull'assessore. Ma non è una battuta, nel davvero? Senso che lo scriveremo e ci chiederemo: dov'è? Esiste l'assessore? È scomparso. È vero che ci ha lasciato foto per 7-8 anni, nel senso che sì, le foto che ha fatto precedentemente sì, sono state tali e tante, sì, arrivate in redazione, certo, che 7-8 anni possiamo andare avanti sereni, però dopo magari vogliamo vedere se è cambiato pettinatura. Non so. Ma so, una delle cose, per esempio, che si sta preparando a Trento nel centenario dell'inizio della Grande Guerra, il 6 agosto parte da Trento la prima tradotta dei Casereghe, che finirà nelle determinate piadure della Galizia. Ci sono un sacco di iniziative, di libri che si vorrebbero stampare, mancano i quattrini, ma probabilmente manca. Ma non anche... è vero che mancano i quattrini, manca la voglia di impiegare i quattrini in manca questa iniziativa. Manca la voglia di impiegare i quattrini in qualche cosa probabilmente. Insomma. Perché a parte la lodevole iniziativa di cui parlava Anello prima, non mi pare che tanti insegnanti si disfino a fare. Mentre invece come io mi sforzo di vedere quello che di bene avviene, certo, ma è un'iniziativa. Prossimo 5 giugno in quelle scuole, il complesso Gandhi di Merano, sì, c'era una riunione ufficiale, sì, dove presenteranno il lavoro fatto dai ragazzi che hanno compiuto quel viaggio. Bello. E il risultato di quel viaggio. E non si può chiedere che tutto avvenga in un momento. La scuola già fa uno sforzo, perché ogni anno, non dobbiamo dimenticarlo, ogni anno a cura sia della provincia di Trento che della provincia di Bolzano, un treno di giovani va a Auschwitz. Benissimo, sì. Sì. Ma non... non è un viaggio della, non è un viaggio di piacere. Prima di partire tutti quei giovani una preparazione, vengono preparati, e quando tornano. Ma tutto bene, Nello, ma quello che manca è un sistema, è un, allora, questo che non c'è. Uno degli impegni di chi è sovrintende alla scuola qui è di far entrare finalmente quello che si è stato di fare, la costituzione come materia scolastica all'interno della scuola. Certo. Questo può avvenire, e già, avviene già casualmente in tante scuole, non è una novità, ma deve entrare in maniera sistematica, perché se i giovani cittadini non conoscono la loro storia, certo, e quello che li aspetta secondo i diritti che qualcuno li ha conquistato, non sapranno mai neanche far valere i propri diritti all'interno del nostro paese. Diritti. Ci auguriamo che la scuola porti come materia scolastica vera accanto arrivo, alla storia, arrivo. Anche la Prego, raccogliamo due o tre considerazioni per poi magari far chiudere Gigi, arrivo. Io volevo fare una piccola considerazione. Io credo che non si possa scaricare sulla scuola la responsabilità della situazione e il disastro culturale in cui navigano i nostri giovani, insomma. Ieri c'è stato, se non sbaglio, il 74 quarantesimo anniversario Piazza Fontana? Ah, no, sì. Credo che la maggior parte dei giovani di Brescia, zero, una città, siano convinti che l'attentato sia un attentato fatto dalle Brigate Rosse, sì, sì, o da chi? Non so chi, cioè, sì, pochissimi quelli che già pensassero alle Brigate Rosse sarebbe già esattamente, certo, no, ma almeno per dimostrare di sapere cosa sono le Brigate Rosse. La forza di quello che è il nostro passato sta diventando, soprattutto a livello di giovani generazioni, d'accordo con l'idea che se non conosciamo da dove veniamo non sappiamo neanche bene dove stiamo andando. Certo. Però io credo che la colpa non sia sulla scuola, ho vissuto la vita nella scuola e so che a scuola gli insegnanti fanno quello che riescono a fare, quello che possono fare. Non possiamo ignorare l'importanza che ha su, non solo su droga, tutto l'insieme dei mass media, a cominciare dalla televisione, da internet, eccetera, eccetera, insomma, sul modo di approcciare alla realtà. E non possiamo ignorare anche i 20 e più anni di disastri culturali provocati nel nostro paese da una gestione dall'egemonia culturale che si è affermata in questi 20 anni. Certo. Qualcuno ha scambiato la scuola per la TV, certo. Anche io sono nato criticando la televisione, la vecchia televisione a gestione Panavei, come il massimo dell'oscurantismo, eccetera, eccetera. Però se si vanno a vedere qualcosa delle vecchie televisioni, allora sembrano cose illuminatissime. Oddio, adesso sembra emergere una commistione tra Bernabei e Bertone, non so se ha visto, insomma, qualche finanziamento non male alle case di produzione. Voglia di sapere, di venire quando sono chiamati, anche, diciamo, che non è vero, c'è interesse a queste cose. Allora, io ricordo una cosa, ma questo di vado a quasi 20 anni fa, avevamo messo in piedi Ciclo Orizzonte, una delle prime iniziative che abbiamo fatto, con grande fatica, perché abbiamo dovuto superare fortissime resistenze, un'iniziativa sulla Via Rasella, facendo venire a Bontano uno dei personaggi di Via Rasella. Avevamo pensato prima a Ventivegna, poi Ventivegna è stato allertato da qualcuno e gli ha detto: guarda che il toccare in Rasella a Bolzano in Alto Adige è una cosa pericolosa, meglio no? E invece Ventivegna è stato sostituito dalla Marisa Musu, un'altra dei partiti GAP di Rasella, e l'iniziativa è stata un'iniziativa strepitosa, una sala piena. Affiancato a Marisa Musu c'era un po' di storia, qualche storico qui non si trova, certo che c'è, come no, ci siamo soltanto uno che ricerca c'è ancora, e c'era un'altra tirolese sempre, non mi ricordo più il nome adesso, non vorrebbe dire. Recentemente è stata fatta un'iniziativa all'Università di Bolzano con il professor Angelo Dolci sul tema della resistenza, c'era una bella presenza di giovani, non come siamo noi, giovani dentro, questo vuol dire, giovani, quelli erano giovani che fuori, no, diciamo. Erano giovani che fuori. Quindi dipende da come si approcciano le cose. Cioè, la parola, con 2 minuti di ritardo, credo, quindi non so se la cosa si è andata a contare. A me piacerebbe sapere anche, ho un po' sentito le cose un po' altre, qualcosa della storia del battaglione Bozze. Perché il battaglione Bozze, prima di finire a Roma, a marciare per Via Rasella, deve aver fatto altre tappe in giro per l'Italia. Speriamo, sentiamo anche Valeria, che poi facciamo un discorso. Sì. Valeria, poi l'aveva chiesto. Ma intanto volevo fare solo un breve intervento. Lunedì abbiamo avuto una serata interessante, sempre con un numero di pubblico come quello, pari a quello di questa sera. Il tema era l'apprendimento della matematica e la matematica nella cultura italiana. Ora, per inquadrare questo tema, di cui i risultati sono pessimi e deludenti, alcuni di voi non presenti, e deprimenti soprattutto, la cosa che posso dirvi per incuorarvi è che nella classifica delle materie scolastiche di alto gradimento la storia risulta una delle prime. Quindi questo, diciamo, dimostrerebbe che in realtà ai ragazzi piace la storia, interessa. Questo è un primo dato, inconfutabile, nel senso che è il risultato di un'indagine a livello nazionale fatta da dei docenti, da dei ricercatori. Questo è il primo punto. Il secondo, mi sento di dire, come operatrice nel settore dell'informazione a disposizione del pubblico, che questa biblioteca organizza 50 iniziative l'anno. Bene, su 50 iniziative 40 ad un taglio storico. Allora vuol dire che forse, almeno qui nella realtà che conosco, cioè quella altoatesina e bolzanina in particolare, per quanto riguarda la storia, le istituzioni pubbliche qualcosa fanno. Poi volevo segnalare che è da un anno attivo un istituto di ricerche e di studi regionali all'interno della LUB. Poi c'è a 200 metri di distanza da qui un monumento alla Vittoria con un centro di documentazione di imminente apertura. Ora, cioè, per essere in un piccolo posto, come per citare la testata di un precedente quotidiano locale, forse di storia qui si sta cercando di farne, poi bisogna vedere appunto se ci sono degli orientamenti, se ci sono delle indicazioni, o come si muove questa storia, come, dove si vuole arrivare, se si vuole arrivare a dei livelli accademici, quali sono i legami. Però di enti che si occupano di storia o stanno incominciando ad occuparsi di storia, mi sembra di poter dire che ce ne sono. Gli archivi, da quello provinciale a quello di Stato a quelli comunali, sono particolarmente attivi con delle pubblicazioni. C'è l'AMPI. Noi per ultimo, nell'ultimo mese, abbiamo pubblicato le memorie di un superstite di Cefalonia Abbiamo un archivio orale di 250 e oltre interviste di personaggi, e ci stiamo occupando di storia moderna e contemporanea, attuale, quasi al confine molto labile col presente, sì, con la cronaca. Una sola riflessione: siccome sono mamma di due adolescenti, mi rendo conto che loro vivono l'apprendimento, l'informazione in un modo completamente diverso anche da me e da mio marito, perché loro vivono un'informazione granulare, liquida, non so come la definiranno adesso gli studiosi, che è completamente diversa, esatto, diversa dalla nostra. Bisognerà trovare un sistema per affascinarli, ma questo non vuol dire che a loro non interessi. Ecco, questo era un, ci tenevo a dirlo, perché effettivamente degli enti ci sono, delle situazioni anche qui si stanno muovendo per valorizzare la storia, e ai ragazzi piace, insomma. Grazie Valeria. Grazie. Ci sono altre considerazioni? L'applauso finale. No, volevo che ricordassi anche che abbiamo avuto un ministro dell'istruzione, Maristella Gelmini, che si è persa in un tunnel, no? Cioè, anche quello è importante, no? È stata una cosa ritrovata. Sì, sì, l'hanno ritrovata. Volevo rispondere. Ascolta, un'altra considerazione. Ci sono altre. Secondo me l'età è importante, perché la storia, come quello diceva Stephen King, che io, anche le persone, come dire, di una certa età leggono, ma in un modo diverso. Per cui è giusto, molto giusto, che i giovani, se io vado a parlare a un giovane, non so, un adolescente di Via Rasella, è molto difficile che possa interessarlo, almeno così settoriale. Cioè, però anche considerare che almeno a una certa età i giovani, cioè, vedono Via Rasella come vedono le guerre puniche, non è che ci sia tanta differenza per loro, per cui valutare anche il gruppo di età a cui appartengono, anche le aspettative. Una persona adolescente proiettata verso il futuro, dubito che giustamente sarebbe terribile se fosse proiettata verso il passato. E poi con l'età io ho visto che l'interesse va per la storia aumenta man mano che aumenta l'età, anche perché forse noi cominciamo a guardare indietro di più di loro, insomma. Ma pretendere che un giovane, anche il discorso di Auschwitz, no? Che ci portano le ragazze a Auschwitz, adesso è tutto sotto, come dire, sotto attenzione, no? Perché già Primo Levi, ancora prima di morire, diceva: ma è giusto? E poi un adolescente che è proiettato verso il futuro, portarlo a Auschwitz potrebbe essere traumatizzante. Hanno fatto anche degli studi, sì, eccetera. Per cui io direi di valutare le fasce di età quando si parla di storia. Gigi, se vuoi chiudere questa bella serata, sì, dicendoci del battaglione, un po' facendo un ragionamento conclusivo. Ecco, dicendo del battaglione, prendo ovviamente quello che scrisse Gandini, più importante testimone di quei personaggi. Quelli che persero la vita erano sudtirolesi, quasi tutti già anziani, arruolati per forza appena 3 mesi prima, partiti malvolentieri e scaraventati come tanti altri nella bolgia di una guerra non voluta né capita, incerti persino sulla loro cittadinanza, al punto che non avrebbero saputo dire con sicurezza se dovevano considerarsi per la burocrazia italiani o tedeschi. Quindi quelli del battaglione Bozen, che avevano prestato servizio nel Regio Esercito e dal Regio Esercito erano stati congedati prima dell'8 settembre, dopo l'8 settembre vennero in qualche modo presi dalla Wehrmacht, non erano SS, sia ben chiaro, questo loro non erano SS, come è stato scritto su tutti i libri e su molti giornali, questo è quasi certo, insomma. Schutzstaffel. Schutzstaffel. Era in particolare degli SS. Tutti e tre i battaglioni, Brixen, Bozen e l'altro, erano Schutzstaffel, che era una formazione dell'SS. Erano distinti dalla Wehrmacht, evidentemente. D'accordo, questi erano tutti uomini che non avevano preso parte a nessun combattimento con la divisa tedesca, quantomeno. 3 mesi prima erano stati arruolati, quindi probabilmente vennero mandati a Roma anche perché erano bilingui, quindi potevano servire come traduttori. Per parlare un attimo sulla questione della scuola, nel libro scritto nel 1911 Il Trentino veduto da un socialista, di tale Benito Mussolini, nelle prime righe si legge: la storia nelle scuole viene insegnata male e si dimentica in fretta. Parliamo del 1911, figuriamoci adesso, insomma. Lui si è fermato poi per 20 anni apposta per quello, per farci capire. Per 20 anni per farci capire cosa. Giancarlo, vuoi dire una cosa? Giancarlo. Giancarlo. Io ho la ragione dei diritti. Perché proprio a proposito, se puoi alzare un po' il non tono, non si sente Giancarlo, parla. Siamo tutti anziani, non ti sentiamo bene. Soprattutto noi siamo anziani. No, ti diamo il microfono. No, vieni, dai, prendi, vieni il microfono, qua. Giancarlo. Vieni qua. Episodio personale, ma comunque. Ciao. Ciao. A proposito della volevo spendere una parola per la ragione dei vinti, cioè quando uscì la brochure, questo libricino di Gasini, era il 76, Repubblica del 79, Repubblica ha iniziato nel 75, no, 76. Come lo vedi, e lessi che questi del padrone Buzzer, stando alle racconto lui, erano gente acciaccata, che non aveva nessuna voglia di andare a combattere, che viveva sui masi, che era stata reclutata di forza, erano sui 40-45 anni, quindi già un'età, erano molto anziani, e allora quando rimasi molto colpito da questo, prese un fascicolo, scrisse anche una lettera, la mandai a Giorgio Bocca, pensando di fargli scoprire qualcosa. Beh, il suo atteggiamento in 30 anni successivi finché vissuto non è cambiato di una virgola, manco la guardata, non, proprio non, è sempre stato, ma anche in molti servizi recenti della televisione, nelle rievocazioni, quello era un battaglione nazista, non, proprio nazisti, quindi non c'è stato assolutamente un minimo di riconoscimento, di approfondimento. Di riflessione. Questo volevo dire. Quindi voglio dire che c'è anche una certa visceralità, insomma, in chi ha vissuto queste vicende. Grazie. Prego, allora alla voce già col microfono dentro. Voglio dire qualche cosa. Ho sentito più volte le trasmissioni della RAI su Via Rasella e mi è interessato molto. Volevo dire che nessun giornalista, sia nel programma prima, terzo, secondo, ha mai parlato di questo battaglione Bozen che si è rifiutato di sparare a questi poveracci che sono stati presi ostaggi e portati alle cave. Nessuno l'ha mai detto. Non capisco perché questi giornalisti che fanno appunto le trasmissioni radiofoniche non si documentano. Questa è la cosa che mi dispiace di tutta questa insomma di questo giornalismo, capite? Quindi volevo proprio raccontare questo. Ho preso il telefono per parlare appunto con qualcuno della Rai 3, però non sono riuscita a avere la linea. E questo proprio mi dispiace sentire questo, che nessuno ha preso in considerazione il fatto che questi anziani bolzanini del reparto Bozen, che erano stati reclutati in quel modo come abbiamo sentito ora, no? Si sono rifiutati di sparare a questi poveracci che sono stati presi come ostaggi. Io rispondo che anche i giornalisti hanno fatto la scuola di cui abbiamo parlato anche questa sera, no? Molti di loro. Prego. C'è anche un'altra ragione, secondo me la ragione è abbastanza individuale. Il mettere a fuoco dare importanza al fatto che un battaglione di tedeschi abbia detto no, noi questa cosa non la facciamo, faceva cascare un sacco di alibi a un sacco di persone che invece il nonno l'avevano detto. Certo. E questa è infatti una delle ragioni per cui la storia recente è sempre più difficile da leggere. Invece, no, prego. Questa è una cosa che dimostra che era possibile dire no. C'era una domanda, prego. Allora, volevo dire questo. Io ho vissuto durante la mia carriera in provincia di Belluno. La provincia di Belluno per un lungo periodo era in mano ai partigiani. I partigiani, non si vedevano in tedesco. Allora, l'esercito tedesco era Pieve di Cadore, Belluno e Petro. Basta, tutti i paesi erano in mano ai partigiani. In casa mia era pieno di partigiani, i miei cugini, i miei amici di fronte, poi l'ufficiale americano che è venuto col paracadute che veniva lì a parlare, io li ho visti. E allora voglio dire che i soldati del Bozen che poi sono state più battaglioni, non erano vestiti da comunisti proprio, erano vestiti con la divisa, non so se lo ricordate, se qualcuno li si è già visti, della polizia. La polizia tedesca ha un colore più blu, più blu, e loro non erano con la grigio verde del militare tedesco, quindi erano tipo reti di contadini, che io ho anche parlato con loro, perché qualcuno era di Bolzano, io ho abitato a Bolzano, li conoscevo via piano. E quindi poi venivano come gli ufficiali, i sottufficiali erano germanici, però i soldati erano tutti tirolesi, però non è che loro erano dei militaristi assassini, loro venivano presi per forza. Però devo dire la verità, i partigiani li hanno stuzzicati forte, perché non uscivano mai dalle caserne, a Piero di Cadore, a Cali sotto c'è una caserna, uscivano tutti in gruppo, che i partigiani comandavano tutti i paesi, perché il paese dove abitavo io, dove sono andato, era il mare partigiano, per cui è venuto una volta una compagnia, ha impiccato due persone, poi se ne sono andati e scappati, perché facevano attentati da tutti i partigiani. Questa gente qui non erano della SS, non erano di criminali, erano di contadini comandati da ufficiali, sottufficiali tedeschi. È fatto nel bellunese. Un'altra cosa, nel paese dove abitavo io, i tedeschi hanno combinato una cosa, cioè hanno messo un ucraino, perché gli ucraini, non so se lo sapete, durante la guerra erano con i russi, poi si sono, una buona parte si sono messe con i tedeschi, si fate per combattere sulla linea gotica e nelle Emilia, in partigiani hanno mandato battaglioni e reggimenti di ucraini, quindi gli ucraini da russi poi gli hanno pagata, e quando sono andati i russi a fine guerra sono andati contro i partigiani nell'Emilia, e anche da fuori sono arrivati, uno ha fatto finta di essere scappato, è rimasto lì per un mese, due, poi è scappato di nuovo a Piero di Cadore, è tornato dopo 3-4 giorni, hanno impiccato due, perché lui guardava chi era il partigiano. Grazie, ringrazio tutti voi anche per le pagine di storia che avete aggiunto al libro di Gigi Sardi. Stavo dicendo che tra l'altro alla fine degli anni Ottanta, per i fatti di Belluno, venne processato Alois Schindholzer al Tribunale Militare di Verona, che era difeso curiosamente dall'avvocato Ritzer, per una di quelle piccole via Rasella che si sono ahimè succedute in molti luoghi del paese. E dicevo che poi è importante anche aggiungere questi capitoli, perché poi c'è una memoria che va assolutamente tramandata. Io mi sento di dire una cosa, non tanto, visto che così, visto che prima abbiamo criticato un po' la scuola, io non posso permettermi di farlo come figlio di professoressa, mi sento di dire però che per esempio voi, in quanto nonni, potete ancora dare molto alla storia, perché potete raccontare le storie, e i nipoti, ve lo dico per esperienza anch'io da padre, hanno una grande fame di storia, per cui ogni tanto trovate il tempo per parlare con i vostri nipoti, queste pagine valgono come il libro di Gigi Sardi. Grazie, buonasera. Grazie a voi.